Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. E benvenuti anche a quest'altra puntata di Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon, che quest'anno si concentra molto sul centenario di Rodari, ma a modo nostro, ovvero sia guardando l'altro Rodari, quel primo Rodari con maggiori connotazioni militanti rispetto a quello sicuramente magari banalizzato in certe filastrocche da sussidiario scolastico. E quindi cerchiamo di raccogliere tutte quelle voci di studiosi e di ricercatori sull'opera di Rodari, ci sono tanti, che hanno operato in tal senso. Tra questi sicuramente Rossella Greco, ricercatrice catanese, e il suo volume Educare senza annoiare, appassionare senza corrompere, ovvero sia Gianni Rodari, la sua direzione del Pioniere dal 50 al 53. Ci legge edizioni. Chi è Rossella Greco? Esperta di letteratura per l'infanzia e presidente dell'associazione culturale Baffè, Avventure per i giovani lettori, un'organizzazione nata nel 2013 con l'obiettivo di promuovere la cultura del libro e della letteratura per i bambini nel cuore del centro storico catanese. In questa intervista in qualche modo ci riassume le risultanze della sua ricerca su Gianni Rodari. Rossella Greco, lei ha pubblicato nel 2014 un testo intorno al lavoro di Gianni Rodari che fa riferimento appunto alla sua direzione del giornalino illustrato Il Pioniere. È un tema, è un aspetto del periodo, diciamo, rodariano poco frequentato e fino a qualche anno fa praticamente dimenticato. Lei invece ha avuto questo desiderio, questa voglia di approfondire questo aspetto della storia di Rodari. Che cosa l'ha mossa in questa direzione? In effetti, come lei ha ben detto, questo è un periodo, una stagione dimenticata dell'autore per ragazzi, cui tra l'altro quest'anno ricorre il centenario più famoso in Italia e non solo. E io mi sono avvicinata alla letteratura per ragazzi durante gli anni della mia formazione accademica al Dipartimento di Scienze Umanistiche, e avvicinarmi al mondo della letteratura per ragazzi ha significato inevitabilmente inciampare nell'opera di Gianni Rodari, e ho desiderato risalire proprio alle origini della poetica di questo grande intellettuale, perché al di là del fatto che sia definito uno scrittore per ragazzi, è prima di tutto un poeta, è stato un poeta, è un grande intellettuale, per cui mi interessava da, tra virgolette, studiosa approfondire sia la sua biografia, risalire alle origini, cioè dove tutto è cominciato. Questa è stata la ragione. Ecco. La prima difficoltà naturalmente sarà stata quella di reperire questa collezione del giornalino delle Pioniere. Per fortuna la Biblioteca Nazionale di Firenze mi è venuta in soccorso. Devo dire che dopo aver fatto delle prime ricerche innanzitutto nelle biblioteche Puma della mia città, Catania, ricerche che non sono andate a buon fine, perché se era possibile rintracciare dei numeri del Pioniere dell'ultima stagione della vita di questo settimanale, ho incontrato non poche difficoltà nel reperimento dei numeri della primissima stagione, perché ricordiamo il Pioniere viene fondato nel 1950, mi interessava indagare i primi tre anni della vita di questo giornalino, che furono gli anni della direzione rodariana. È stato molto complicato quando avevo deciso di gettare la spugna, perché ricerche non solo in Sicilia, ovviamente avevo fatto anche delle ricerche in altre regioni d'Italia, quando avevo, ripeto, deciso di cambiare argomento della mia tesi, e mi è venuta in soccorso la biblioteca, come dicevo, la Biblioteca Nazionale di Firenze, in particolar modo nella figura del signor Fulvio Stacchetti, che all'epoca si occupava della gestione dell'emeroteca, che mi ha concesso una consultazione d'eccezione, perché tra l'altro era estate, fine luglio, la biblioteca stava anche andando in ferie, quindi mi hanno permesso un accesso del tutto speciale al Forte Belvedere, dove, che è questo fortino sulle colline di Firenze, dove si trova, dove c'è la sede dell'emeroteca nazionale di Firenze, e lì ho avuto l'onore e la gioia di toccare con le mie mani i numeri, appunto, di questo primo triennio di vita del pioniere. Rossella Greco, abbiamo detto 1950-1953, poi dopo Rodari continuerà comunque a collaborare attivamente al Pioniere. E però qui c'è la sua impronta, perché Rodari viene chiamato a Roma, lui era a Torino all'epoca, viene chiamato a Roma, era già un giornalista dell'Unità, per occuparsi di questo giovane dei ragazzi. Quindi è stata un'esigenza che il Partito Comunista all'epoca si pose, che era quella evidentemente dell'educazione dei ragazzi. Già era nato, ricordiamolo, l'Associazione Pioniere d'Italia. Rodari si prestò volentieri a questa esperienza. Su questo punto, primo Rodale, nella sua direzione del giornale, che cosa ci può dire Rossella Greco? Quello che ho scoperto è sicuramente un Rodari diverso da quello che poi è stato antologizzato dall'Italia dagli anni 60 in poi, perché ripeto, negli anni 60 Giulio Einaudi coinvolgerà Rodari in questa avventura, pubblicando tutta la sua, le sue filastrocche, le sue poesie, eccetera eccetera. Da quel momento in poi comincerà ad essere il Rodari che un po' tutti conosciamo. Il Rodari che ho incontrato in questi primi anni della sua direzione è un Rodari più caustico, un Rodari schierato politicamente, perché appunto ricordiamo che il Pioniere nasce dalla volontà del Partito Comunista di creare un giornalino che fosse destinato a ai bambini della sinistra italiana sostanzialmente, cioè, e oltre che essere un giornalino aveva un proposito un po' più ampio, cioè quello di mettere a punto un sistema pedagogico laico che si contrapponesse all'egemonia cattolica di fatto in ambito educativo. Quindi quello che mi ha colpito è che Rodari, a partire dall'ufficio postale, dalle rubriche, dalla creazione comunque di questi romanzi illustrati, e tra l'altro ci fu anche una polemica non poco semplice, un po' dura con il Partito Comunista sull'uso dei fumetti che lui decide di riabilitare, da sempre condannati invece dal partito, è un Rodari meno ecumenico, se vogliamo, però è un Rodari che ci parla di pace, è un Rodari che ci parla di solidarietà, è un Rodari che chiama in causa i bambini, invitandoli ad essere protagonisti attivi della propria vita e quindi poi anche della storia, tra virgolette. Chiede un impegno proprio ai bambini, no? Richiede un impegno, cioè l'impegno va imparato, si impara da piccoli, e quindi l'impegno sarà andare bene a scuola, ma non per avere una bella pagella fine a se stessa, ma perché è a scuola che si costruisce il cittadino di domani, quindi un Rodari che dimostra tutta la sua sconfinata fiducia nell'uomo, della sua capacità un po' di volteriana memoria di coltivare il proprio giardino per costruire il migliore dei mondi possibili. Quindi io ho rintracciato in questo primo triennio tematiche che poi apparterranno a tutta la produzione rodariana, ma che nascono proprio in questa stagione speciale. E dopo Rossella Greco da Catania veniamo a Bologna, torniamo al convegno È scoppiata una torta in cielo, che ha visto la partecipazione di diversi protagonisti della vicenda rodariana, tra gli altri Marco Danè, che fu co-conduttore del programma televisivo Il Paese di Giocagiò, realizzato insieme a Rodari e di cui può darci una testimonianza assai significativa. Merita tutto quello che si sta facendo e si sta dicendo per lui, ma per lui è una cosa normale, e vi dico perché all'epoca c'era una cosa molto particolare. Quando c'era da fare una trasmissione per bambini importante, perché era l'unico canale della RAI, che cosa si diceva? Ci vuole un autore bravo, chi prendiamo? E Teresa Buongiorno, insieme a Paola De Benedetti, che era quella che si occupava proprio, dicevano: beh, chi è il meglio in questo momento in Italia? Gianni Rodari, che tra l'altro ha avuto il premio Andersen proprio nel 1970, prendiamo Gianni Rodari, Gianni Rodari, e si prende Gianni Rodari, per cui per noi era normale. Dov'è che abbiamo trovato riscontro perché in effetti sia io che lui, perché poi ho collaborato con lui, ho avuto l'onore di collaborare con lui, andavo anche a casa sua, si facevano i testi, ma lui era una spanna, 10.000 spanne, perché poi gli venivano in mente delle cose che a volte io ho scritto anche qualche cosa, dicevo, è carino questo qua, poi arrivava lui, non fa niente, no? Leviamo tutto quello che uno ha tentato di scrivere fino a quel momento, perché la sua fantasia era eccezionale. Ecco, ci siamo capiti perché avevamo la stessa cultura, anch'io sono venuto dall'Azione Cattolica come lui. Perché il percorso è stato quello? Perché anche Gianni Ordani è stato addirittura in seminario, pure io sono stato in seminario, lui c'è stato qualche anno, io stato un giorno e sono scappato subito, un giorno dopo già ero scappato. Perché tutto questo? Perché l'educazione, la cultura cristiana, non cattolica, cristiana, aveva degli ideali che però non venivano in qualche modo molto rispettati, almeno per noi, da quella che era sia la parte, diciamo così, cattolica che la parte politica. Allora era ovvio finire, no, nella parte di sinistra del comunismo, che all'epoca era una cosa diversa da quella che poi è avvenuto dopo. Quindi c'era questa cosa che ci univa e che soprattutto portava a credere a qualche cosa. Ora io vi dico che cosa c'era dietro a tutto questo. Perché Marcello Argigna, che è stato, non so se l'avete sentito nominare, è stato tra l'altro l'autore dell'anno dopo, perché Gianni Rodari è stato autore del Paese di Gioca Gioca. E ha voluto, scusa, Gioca Gioca era il programma che c'era prima, ma i testi erano inglesi, cioè venivano dall'Inghilterra tradotti in italiano, e quindi la trasmissione di Gioca Gioca era tradotta dal play school inglese. Per la prima volta in cui sono stati fatti i testi italiani è stata l'anno 70 con Rodari, 71 con Marcello Argigli, che è rimasto, che era un po' il suo discepolo. E lui ci ha fatto capire tante cose, perché diceva, vedi, tutti parlano, anzi ve lo leggo perché è una cosa molto bella quella che lui scrive a un certo punto, dice, a chi nota che nelle fiabe, nelle filastrocche spesso si parla di pace, giustizia, libertà. Non è una cosa così tanto per dire. Rodari risponde che mai questo è programmato, deciso a priori, e questa è la cosa fondamentale. Ma se un autore crede in certi valori, di qualsiasi cosa parli, essi in qualche modo saranno presenti. Anche nelle sue opere più ludiche, come notano i curatori, la sua poetica ha sempre un messaggio, una suggestione che aiuta a capire gli errori del mondo e a cercare soluzioni. Questo è Rodari. Semina il grano, volta la carta si vede il villano che zappa la terra, volta la carta viene la guerra, per la guerra non c'è più soldati, a piedi scalzi sono tutti scappati. Angiolina cammina, cammina, sulle sue scarpette blu, carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e lui non c'è più, carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e lui non c'è più. Adesso purtroppo, e lo stesso Marcello Argigli lo dice, molti anni dopo alcuni hanno voluto ridurre la sua concezione della vita quasi a un buonismo di maniera, la pace, facciamo questo, facciamo quell'altro, la guerra, saltiamo la guerra, non facciamo questo, non facciamo l'altro, e per i bambini andava bene, ma diventava una favoletta. Non è questo, dice lui, perché Rodari diceva, se poi uno non capisce niente, non c'è niente da fare. forse bisogna mandare a scuola per tutta la vita, e poi come faceva lui, e qualche anno in più, cioè gli dava qualche questa spinta in più. Ma c'è la Gigli dice, se ci chiediamo qual è il rodare oggi presente nella scuola di editoria, è sconsolante constatare che nelle antologie scolastiche compaiono i suoi testi meno significativi, che molti suoi libri sono editi a brandelli e snaturati, che la grammatica della fantasia è praticamente uscita dalla scuola, che le sue geniali proposte pedagogiche vengono ridotte a una neutra e banale apologia della fantasia e della creatività. Per pigrizia intellettuale e opportunismo ideologico, anche nell'intellettualità diffusa di sinistra, si tende a magnificare genericamente la sua opera, ignorandone le indicazioni più innovatrici. Ormai è più noto che effettivamente conosciuto, Rodari è ridotto a un santino buono per tutti gli usi. Guardate, questa è tosta, lo diceva Marcello Angilli, che stava con lui qualche anno dopo, non adesso. Questa è una cosa detta praticamente negli anni Ottanta, dalla fine degli anni 70, quindi c'era questa sensibilità. Allora, come si fa a distinguere il Rodari santino con il Rodari autentico? Perché la poetica di Rodari non è solo leggere, ma è soprattutto essere. Questo era Rodari. Quello che ho conosciuto io è una persona che era. Io l'ho conosciuto ed era di una dolcezza infinita. E quello che diceva era perché ci credeva. Sappiamo quanti messaggi di pace, di solidarietà, di amore girano per il mondo, ma se non cominciamo dalla piccola parte che noi possiamo fare, rimangono parole vuote. I due personaggi che ha scritto Rodari, a parte l'impostazione della trasmissione, erano il cavallo parlante, e ci sono le fiamme del cavallo parlante, ed era il signor Coso. Guardate quant'era educativo il signor Coso. Lo faceva un certo Enrico Luzzi, che era un grande attore all'epoca. Praticamente noi parlavamo con il signor Coso, per il quale veniva e diceva ieri sera, dopo che sono entrato in camera, ho chiuso la cosa, la porta, ecco, bravi, ho chiuso la porta. E poi sono andato a, mi sono steso al, come a Coso, mi sono steso sul coso, sul letto, ecco, no? Ed era tutto così, ed era molto divertente, i ragazzi si divertivano moltissimo e andavano proprio a trovare la parola giusta per questo. Mentre il cavallo parlante era quello che pontificava. Ne leggo qualcuna, perché è anche come vanno letto, tanto la filastrocca. Certo, lui le scriveva così perché è più udibile, più ascoltabile, arriva meglio la filastrocca, ma per far capire bisogna dirla in un modo diverso. È quello che ci insegnava di fare. Un signore molto piccolo di Como una volta salì in cima al Duomo, e quando fu in cima era alto come prima quel signore tanto piccolo di Como. In tre righe c'è una filosofia enorme, questo che va insegnato. C'è un bambino che sale un cancello, ruba ciliegie, piume d'uccello, tira sassate e non ha dolori. Volta la carta c'è il fante di cuore, fante di cuore che è un fuoco di paglia, volta la carta e il gallo ti sveglia. Angiolino alle 6 di mattina si intreccia i capelli con foglie d'ortica, ha una collana di ossi di pesca, la gira tre volte in mezzo alle dita. Ha una collana di ossi di pesca, la gira tre volte in mezzo alle dita. Madre al mulino è un figlio infedele, gli zucchera il naso di torta di mele. Mia madre e il mulino sono nati ridendo, volta la carta c'è un pilota biondo, camice di seta, cappello di volpe e sorriso d'atleta. Angiolina seduta in cucina che piange, che mangia, insalata di more. Ragazzo straniero ha un disco d'orchestra che gira veloce, che parla d'amore. Ragazzo straniero ha un disco d'orchestra che gira, che parla d'amore. Ma Madore ha perso 6 figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie. Madama d'oressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto. Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sogni interrotti. Angiolina ritaglia giornali, si veste da sposa, canta vittoria, chiama i ricordi col loro nome. Volta la carta e finisce in gloria, chiama i ricordi col loro nome. Volta la carta e finisce in gloria. Storie, i fumetti guardati dal calendario. A cura di Gianluca Omigliacchi, della fumettoteca Alessandro Calegati, Calle. Intrepido. 85 anni per la testata fumettistica L'Intrepido, nato nel 1935, con al suo attivo un totale di 3.028 numeri pubblicati in 64 anni. Settimanale di avventure di carattere popolare, è pubblicato dalla casa editrice Moderna dei Fratelli Alceo, interessati a valorizzare gli autori italiani e le serie a fumetti ricchi di colpi di scena e di amori contrastati, come nella migliore tradizione ottocentesca. Il grande successo della testata costringe l'editore a stampare il giornale presso diverse tipografie. A partire dal 1936, ai personaggi italiani si affiancano alcune serie di produzione americana, che scompaiono nel 1939 in seguito alle disposizioni del regime fascista. La testata torna a presentare unicamente serie di produzione italiana, con interminabili puntate. Nel 1936 i fratelli fondano l'editoriale Universo e dopo 3 anni, il 27 dicembre del 1939, chiudono la testata Il Monello, facendo confluire le storie rimaste incompiute nell'Intrepido. Nel dopoguerra, però, il Monello torna a rivivere per coprire la fascia di mercato dei bambini e degli adolescenti. Per contrastare il calo delle vendite registrato nel dopoguerra, gli editori dell'Intrepido tentano di rilanciare la testata inserendo fotoromanzi, concorsi a premi e regalando come omaggio le strisce fumettistiche. Ma i risultati sono deludenti. Il giornale allora decide di passare al più maneggevole formato libretto. La nuova formula editoriale si rivela vincente e le vendite aumentano. Nascono qui le storie di personaggi destinate a restare a lungo nella memoria dei lettori. Negli anni a seguire la fogliazione del libretto cresce arricchendo di nuove rubriche e di nuovi personaggi, offrendo ai suoi lettori anche gli inserti didattici della serie enciclopedia, animali, arti, costumi, flora e molte altre. Col numero 44 del 1963 aumenta nuovamente il formato, che permette di inserire più materiale nelle pagine. Il giornale sta crescendo di target per differenziarsi sempre più dal Monello. Molte le storie libere. Nel 1969 il sottotitolo diventa Il periodico del Brio e nel 1970 ancora una lunga serie di albi allegati. Nel passare degli anni i servizi sportivi hanno il sopravvento sui fumetti e, dal 1982, la testata diventa Sport Intrepido. Nel 1992 l'Intrepido cambia drasticamente formula editoriale, pubblicando storie dei temi forti che, spesso, sconfinano nel genere splatter. Per questo motivo subirà sequestri e processi. Dopo 64 anni di pubblicazioni, l'Intrepido chiude col numero 12, datato dicembre 1997. Per questa settimana è tutto, quindi l'appuntamento alla prossima puntata, ricordando che per ascoltare questa trasmissione in podcast l'indirizzo online è www.radiocittafugico.it oppure www.ilpioniere.org. Ciao a tutti.